America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Dominant performance by the president. I mean, I think he did a really good job. Mitt Romney was unable to answer it directly. Avete sentito questa cacofonia di voci? Sono le voci che ho raccolto subito dopo il dibattito alla Hofstra University nella spin room. In realtà era una spin room enorme perché c'erano governatori, sindaci, politici, deputati, portavoci, strateghi e uno degli strateghi presente era Jim Messina. Sentiamolo. With women voters, tonight was really problematic for Romney. He had no answer to pay equity. He was fundamentally not honest about his contraception position. Avete sentito Jim Messina, che è il capo della campagna di Barack Obama. L'avevo incontrato a Chicago quando feci all'inizio dell'anno una visita ai quartieri generali della campagna del presidente, e parla di donne. Riguarda le donne, dice: Romney ha avuto delle grosse difficoltà, non ha risposto sull'equità delle paghe, è stato disonesto riguardo la sua posizione sulla contraccezione. Ecco, vi ho fatto ascoltare questo commento di Messina perché in realtà la questione delle donne è balzata al centro del post dibattito, e dal mio punto di vista devo dire il risultato più importante per il presidente americano è quello non tanto di aver vinto ai punti, ma quanto quello di essere riuscito a costringere sempre più in un angolo Mitt Romney, e cioè nell'angolo della destra. Romney era stato abilissimo durante il dibattito di Denver a venirne fuori, si era collocato al centro, era sembrato molto più moderato di quanto potesse sembrare durante le primarie o durante la campagna elettorale prima dei dibattiti, e dunque era riuscito in un'operazione di trasformazione, molto camaleontico Mitt Romney, come sappiamo. Ecco, l'altra sera invece Barack Obama, attacco dopo attacco, ora sulle donne, ora sulle tasse, ora sull'economia, ora sull'energia, è riuscito a spingere Romney sempre più a destra, e Romney naturalmente ha reagito. Sentiamo come. Turns out Romney doesn't oppose contraception at all. In fact, he thinks abortion should be an option in cases of rape, incest, or to save a mother's life. This issue is important to me. Ecco, già ieri Mitt Romney, devo dire, sono abilissimi, bravissimi i suoi strateghi nel produrre dei video immediatamente subito dopo un dibattito. Ne hanno prodotto uno in cui si vede una signora che dice, proprio riguardo quel che diceva Jim Messina sulla contraccezione, questa signora che dice: ma dice, io non sapevo che Mitt Romney in realtà fosse a favore della distribuzione della pillola, non sapevo che fosse a favore dell'aborto in alcuni casi estremi, per esempio nel caso di stupro, oppure nel caso di pericolo di vita per la madre. Dunque mi sembra che la sua posizione sul fronte delle donne sia molto più chiara adesso di quanto non fosse in passato. Ecco, Romney è intervenuto subito perché si è reso conto di questa manovra, e dunque nel post dibattito, in quello che è lo spin room continuato che andrà avanti per alcuni giorni, la sua campagna sta cercando di recuperare la posizione di centro. I think it was a dominating performance by the president tonight. This had been a boxing match, it had been a knockout in the first round. Ho fatto anche una chiacchierata con Antonio Villaraigosa, che è il sindaco di Los Angeles, è stato il master of ceremonies, è stato un po' il coordinatore, il presentatore ufficiale della convention di Charlotte. Ha detto che se il dibattito fosse stato un incontro di box, beh, Obama avrebbe messo a tappeto Romney fin dal primo round. Soprattutto, dice, lo ha incalzato tutta la sera sulla mancanza di dettagli del suo piano per la riduzione delle tasse e per la creazione di posti di lavoro. Ed è questo il punto su cui sta battendo sempre più Barack Obama, che ieri si è recato in Iowa, si è recato in Ohio, due stati molto importanti dove si trova in vantaggio, dove cerca di difendere la sua posizione di vantaggio, parlando soprattutto di economia. E che cosa ha potuto dire parlando di economia? Beh, innanzitutto ha potuto farsi bello con un dato uscito ieri mattina, un aumento del 15% delle nuove costruzioni, ed è un dato molto importante per il settore immobiliare, è il miglior dato in 4 anni, conferma che il settore immobiliare non solo si sta riprendendo, ma sta facendo un po' da traino per l'economia nel suo insieme. Non solo, c'è stato anche un comunicato stampa di Gallup, secondo cui, da una loro analisi del tasso di disoccupazione per il mese di ottobre che stanno studiando, siamo a metà del mese, potrebbe esserci un'altra sorpresa, cioè il tasso potrebbe scendere addirittura al 7,3% dal 7,8%. Pretty close, I'll give an A. I'll downgrade to an A. E questo è Ron Kaufman. Ron Kaufman è uno dei sostenitori invece di Mitt Romney e dice che il candidato repubblicano ha fatto benissimo in questo dibattito e secondo lui, se non ha preso un 10 lode, ha preso un 9,5. E dunque c'è però comunque un'ammissione che forse Romney in questo dibattito ha fatto degli errori, ve li riassumo, sono stati degli errori in cui lui soprattutto ha dato la parola al suo avversario e questo non doveva farlo, ha dato la parola a Barack Obama quando gli ha chiesto ma dimmi quali sono le misure che tu hai preso per non dare le licenze di esplorazione e estrazione petrolifera e lì Obama ha preso il microfono e ha parlato a lungo in quello che era il tempo di Mitt Romney. Subito dopo, altra domanda, ma tu controlli gli estratti conti delle tue pensioni? E Obama dice, ma no, veramente, guarda, no, perché non è che siano così lunghi come i tuoi. E lì la gente ha riso e dunque quello che era l'obiettivo di Romney, quello cioè di colpire Obama sulla Cina, non ha funzionato. Però, come dice Kaufman, Romney ha fatto molto bene, ha tenuto le sue posizioni, come avete visto è già entrato nel pieno del confronto post dibattito con questo spot televisivo, i democratici ancora non ne hanno prodotto uno e sicuramente stanno cercando di individuare altri punti di debolezza di Barack Obama, perché se Barack Obama è stato molto abile nel rispondere, nel giocare d'anticipo su quelle che erano delle posizioni di Romney e nel rispondere con delle battute, poi dal punto di vista della sostanza ci sono alcune cose che sono alquanto fragili, per esempio sulla Libia, dove in qualche modo Obama è riuscito a svicolare via. La mia sensazione è che se Romney avesse fatto bene su quelle due o tre domande dove è scivolato, sicuramente avrebbe dato del filo da torcere a Barack Obama, avrebbe potuto addirittura vincere questo dibattito. Perché ve lo dico? Perché c'è ancora un terzo dibattito. Mitt Romney avrà imparato la sua lezione, sarà un dibattito molto interessante. Già questo ultimo è stato un dibattito molto fisico, molto violento, vorrei dire. Si sono cancellate delle regole secondo cui chi aggrediva il suo concorrente perdeva automaticamente il dibattito. Non è stato così, siamo entrati in una nuova fase elettorale, siamo in territorio sconosciuto, la corsa resta un testa a testa, Barack Obama si trova in svantaggio sul piano nazionale per lo 0,6%, un sondaggio di Gallup dà a Romney il 51% e a Barack Obama il 45%, ma è un sondaggio che è stato raccolto prima del dibattito. La mia impressione, vi dicevo, è che arriveremo sul filo di lana a queste elezioni. Barack Obama ha il tempo per evitare che questo succeda, la possibilità di difendere la sua posizione di vantaggio in stati come l'Ohio, come il Wisconsin, come l'Iowa, mentre Romney cercherà di fare esattamente il contrario. In questo momento sul piano nazionale la posizione, vi dicevo, è ancora leggermente a vantaggio di Romney, ma sul piano dei voti elettorali a vantaggio di Obama. Obama ne ha 237, Romney ne ha 191. Per vincere ne occorrono 270. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sui tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. Le donne, vi dicevo, sono al centro di questa campagna elettorale. Il voto delle donne resta una posta in palio molto importante e Romney, devo dire, si trova leggermente in vantaggio rispetto a Barack Obama. Dunque, visto che le donne in questa corsa per la Casa Bianca del 2012 sono al centro dell'attenzione, dedico a loro la canzone del giorno con questo classico di Bob Dylan, Just Like a Woman. Nobody feels any pain. Tonight as I stand inside the rain, everybody knows that baby's got new clothes, but lately I see her ribbons and her bows have fallen from her curls. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!